resta qui solo un momento e balliamo ancora insieme questa danza tra sorrisi e lacrime. Si apre il cielo su di noi, questa musica scalderà la tua anima ferita e magica. Chiudi gli occhi, lascia che sia, tutto scorre, il tempo va via, e la notte lo sai che passerà. Piano senza voce per lasciarti addormentare, il tuo sonno io saprò vegliare. Sai che passerà.